Capitolo secondo di Mirice. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitare il sito LibriVox.org. Registrato da Sergio Baldelli a Roma, novembre 2007. Mirice di Giovanni Pascoli. Capitolo secondo. Dall'alba al tramonto. Primo, alba festiva. Che hanno le campane che squillano vicine, che ronzano lontane? È un inno senza fine, or d'oro ora d'argento, nell'ombre mattutine. Con un dondolio lento implori, o voce d'oro nel cielo sonnolento. Tra il cantico sonoro il tuo tintinno squilla, voce argentina, adoro. Adoro, dilla, dilla, la nota d'oro, l'onda pende dal ciel tranquilla, ma voce più profonda, sotto l'amor rimbomba, par che al desio risponda la voce della tomba. Secondo, speranze e memorie. Paranzelle in alto mare, bianche bianche, io vedeva palpitare, come stanche, o speranze, ale di sogni per il mare. Volgo gli occhi e credo in cielo rivedere paranzelle sotto un velo, nere nere, o memorie, ombre di sogni per il cielo. Terzo, scalpitio. Si sente un galoppo lontano, è la che viene, che corre nel piano con tremula rapidità. Un piano deserto, infinito, tutto ampio, tutt'arido, eguale. Qualche ombra d'uccello smarrito che scivola simile astrale, non altro, e si fuggono via da qualche remoto sfacelo, ma quale, ma dove gli sia, non sa né la terra né il cielo. Si sente un galoppo lontano, più forte, che viene, che corre nel piano, la morte, la morte, la morte. Quarto, il morticino. Non è Pasqua d'ovo? Per oggi contai di darteli i piedi. È Pasqua, non sai? È Pasqua, non vedi il cercine nuovo? Andiamoci a Mimmi, lontano, lontano, din don. Oh, ma dimmi, non vedi coin mano il cercine nuovo? Le scarpe d'avvio? Sei morto, non vedi, mio piccolo cieco. Ma mettile ai piedi, ma portale teco. Ma diglielo a Dio, che mamma ha filato sei notti e sei dì, sudato, vegliato per farti, oh, così, le scarpe d'avvio. Quinto, il rosicchiolo. Per te l'ha serbato, soltanto per te, povero angelo. Ed eccolo, oh pianto, lo vedi? Un rosicchiolo secco. Moriva sul letto di strame, tu, bimbo, dormivi sicuro. Che pianto, che fame, ma c'era un rosicchiolo duro. Ma ella guardava lunghe ore, guardava il suo bimbo e morì di pianto, di fame, d'amore. E guarda, il rosicchiolo è qui. Sesto, allora. Allora, in un tempo assai lunge, felice fui molto, non ora. Ma quanta dolcezza mi giunge da tanta dolcezza d'allora. Quell'anno, per anni che poi fuggirono, che fuggiranno, non puoi, mio pensiero, non puoi portare con te che quell'anno. Un giorno fu quello, che è senza compagno, che è senza ritorno. La vita fu vana parvenza, sì prima, sì dopo quel giorno. Un punto, così passeggero, che in vero passò non raggiunto, ma bello così, che molto ero felice, felice, quel punto. Settimo, patria. Sogno d'un dì d'estate, quanto scampanellare tremulo di cicale, stridule pel filare muoveva il maestrale le foglie accartocciate. Scendea tra gli olmi il sole in fasce polverose. Erano in ciel due sole nuvole, tenui, rose, due bianche spennellate in tutto il ciel turchino. Siepi di melograno, fratte di tamerice, il palpito lontano d'una trebbiatrice, l'Angelus argentino. Dov'ero? Le campane mi dissero dov'ero, piangendo, mentre un cane la trava al forestiero che andava a capochino. Ottavo. Il nunzio. Un murmure, un rombo. Son solo. Ho la testa confusa di tetri pensieri. Mi desta quel murmure ai vetri. Che brontoli, o bombo, che nuove mi porti? E cadono l'ore giù giù con un lento gocciare. Nel cuore lontane risento parole di morti. Che brontoli, o bombo, che avviene nel mondo? Silenzio infinito, ma insiste profondo, solingo, smarrito, quel lugubre rombo. Nono. La cucitrice. L'alba per la valle nera sparpagliò le greggi bianche. Tornano ora nella sera e s'arrampicano stanche, una stella le conduce. Torna via dalla maestra la covata e passa lenta. C'è del biondo alla finestra, tra un basilico e una menta. È Maria che cuce e cuce. Per chi cuci e per che cosa? Un lenzuolo, un bianco velo. Tutto il cielo è color rosa, rosa e oro, e tutto il cielo sulla testa le riluce. Alza gli occhi dal lavoro. Una lacrima? Un sorriso? Sotto il cielo rosa e oro, chini gli occhi, chino il viso, e la cuce, cuce, cuce. Decimo. Sera festiva. O mamma, o mammina, hai stirato la nuova camicia di lino? Non c'era laggiù tra il bucato, sul bossolo o sul biancospino? Sugli occhi tu tieni le mani, perché non lo sai che domani din don dan, din don dan? Si parlano i bianchi villaggi, cantando in un lume di rosa. Dell'ombra dei monti selvaggi si sente una romba festosa. Tu tieni agli orecchi le mani, tu piangi ed è festa domani. Din don dan, din don dan. Tu pensi, oh ricordo, la pieve, quant'anni ora sono? Una sera il bimbo era freddo di neve, il bimbo era bianco di cera. Allora suonò la campana, perché non pareva lontana? Din don dan, din don dan. Suonavano a festa, come ora, per l'angiolo. Il nuovo angioletto nel cielo volava a quell'ora. Ma tu lo volevi al tuo petto, con noi, nella piccola zana. Gridavi, e lassù la campana, din don dan, din don dan. Fine del capitolo secondo.